L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta, come sempre, qui da Radio 24, il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle storie, delle persone, delle passioni, questo percorso comune, questo strano oggetto che si chiama Europa. Noi cerchiamo di così narrarvelo anche in maniera un po' più calda. L'attualità politica ed economica viene raccontata giorno per giorno qui a Radio 24. Il sabato cerchiamo anche altri punti di vista con chi l'Europa la fa, la gioca, la sperimenta, la prova. Un programma in collaborazione con Euronet+.eu, network di radio europee. Le coordinate per trovarci anche in rete: Euronet+.eu, il sito con i vari dossier in tante lingue diverse, oppure radio24.it nelle pagine dedicate al progetto, oppure sui social network @euronetplusr24 o @FedericoTaddia, le mie pagine personali, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Manca una settimana al voto. Noi ci crediamo, al di là della par condicio, quella di invitare ad andare a votare, perché vuol dire diventare protagonisti della nostra Europa, scegliere chi ci guiderà. Parleremo anche di questo oggi, ma non solo. Ogni settimana un viaggio, oggi giochiamo in casa, si parte da Nuoro. You Can, ed è un progetto nazionale promosso e gestito dai centri Europe Direct di Pisa, Venezia, Torino, Nuoro e Barletta, cofinanziato dal Parlamento Europeo, che nasce proprio per far sperimentare cosa significhi fare politica attiva in Europa. E proprio in queste ore, ieri e oggi, a Nuoro si sta tenendo una simulazione del Parlamento Europeo con tanti giovani impegnati. Di tutto ciò ne parliamo con Salvatore Bueddu, responsabile dello sportello Europe Direct di Nuoro e curatore della simulazione. Buongiorno Salvatore, ciao e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Ciao. E Laura Satta, una delle ragazze che sta partecipando, lei fa il liceo linguistico in quinta e sta partecipando alla Commissione per i diritti della donna e parità di genere. Ciao Laura. Buongiorno a tutti voi. Allora Laura, partiamo da te. Cosa avete fatto ieri? Cosa state facendo in questi minuti? Ci siamo riuniti in commissione ieri, abbiamo iniziato a stilare ciò che la nostra commissione con i diversi partiti pensano e ciò che vogliamo migliorare, perché è arrivato il nostro momento, è arrivato il momento per noi ragazzi di trattare argomenti che magari di solito non trattiamo, ma che ci riguardano in prima persona. Parlo per me perché sono una ragazza, quindi i diritti delle donne, l'uguaglianza di genere. È arrivato il momento di esprimere le nostre idee, quindi proprio ci mettiamo in gioco al massimo. Come vi siete preparati per questo appuntamento? Cioè, in questi mesi avete studiato questioni europee? Sì, ci siamo riuniti al centro Europe Direct con delle ragazze che ci hanno aiutato, degli esperti, ci hanno aiutato un po' a entrare nell'ambito di cos'è il Parlamento, di cosa si parla, di questi argomenti che magari sono un po' più difficili per noi ragazzi, che magari di solito tralasciamo, però ci hanno aiutato e ci hanno fatto entrare nell'ambito di questi argomenti. Salvatore, obiettivo raggiunto, perché credo che le parole di Laura insomma siano il promo migliore del vostro lavoro. Siamo molto soddisfatti, sono stati 2 mesi molto impegnativi. Siamo andati a visitarli nei loro istituti, e a Nuoro abbiamo 8 istituti superiori, abbiamo incontrato 1200 ragazzi e quindi abbiamo in qualche maniera in un paio d'ore presentato le istituzioni europee e soprattutto ho parlato del momento molto importante e difficile che stiamo attraversando, e questa scadenza elettorale molto importante del 25 maggio. E vederli all'opera da ieri e vederli lavorare con competenza e discutere di emendamenti, e poi si bocciano a vicenda gli emendamenti, si discutono animatamente, però hanno lavorato sulle materie specifiche e è stato un bello spaccato di una gioventù che si vuole impegnare anche in futuro. Certo, Salvatore, con l'altra Europa vogliamo raccontare l'Europa delle possibilità e l'Europa delle opportunità, e i centri Europe Direct sono un po' il braccio operativo, ne sono assolutamente convinto, di tutto ciò che è l'operatività europea, perché lì passano le informazioni concrete. È complicato oggi spiegare ai giovani che cos'è l'Europa? È complicato sicuramente, perché gli interessi dei giovani sono tanti altri. L'informazione in generale non arriva ai loro pensieri, alla loro vita quotidiana. È anche vero che quando, per esempio, pongo il problema di un utilizzo efficiente di un mezzo potente come il telefonino, allora si rendono conto come le informazioni che noi diamo allo sportello possono essere recuperate anche tramite i nostri servizi attraverso un telefonino. Cioè, sì, l'invito è quello di utilizzare una molteplicità di strumenti di comunicazione, dallo sportello fino ai mass media, al web 2.0, certo, Twitter, Facebook e altro. Grazie Salvatore. Laura, cosa hai capito in più dell'Europa in queste ore? Qual è il messaggio che ti piacerebbe lanciare ai tuoi coetanei? Io vorrei dire a tutti quanti i giovani di mettersi d'impegno, perché possiamo anche noi più piccoli trovare delle soluzioni che possano aiutare a migliorare la nostra situazione, che è più o meno grave in alcuni settori. Quindi quello che mi rimane di più è che è arrivata l'ora veramente di essere presi in considerazione. Insomma, quindi è veramente un'opportunità speciale. E questo era l'invito di YouCan, europedirect.nuoro.eu, per tutte le informazioni. Grazie davvero, ciao Laura, buon lavoro a te e a tutti gli altri ragazzi e ragazze che con te stanno partecipando a questa simulazione. Ciao Salvatore, grazie. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Garanzia Giovani. Garanzia Giovani è il piano italiano rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per accedere ad opportunità di formazione e lavoro nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee, pensato per favorire la loro occupabilità e incentivare le possibilità di avvicinarsi al mercato del lavoro. Se avete i requisiti di età e siete in cerca di opportunità di lavoro, fateci un giro. Lì si possono conoscere le possibilità offerte dalla rete EURES o cercare gli eventi e gli job day organizzati nella propria regione. Si può anche aderire lasciando le proprie credenziali e si verrà poi inseriti nel portale Click Lavoro, oppure si verrà contattati dal servizio per l'impiego della regione in cui si desidera trovare lavoro. Volete saperne di più? Andate su garanziagiovani.gov.it. L'altra Europa. Ascoltando è uno degli spot realizzati, uno spot virale che ha girato molto, molto in rete in questi giorni, uno spot realizzato per invitare i giovani ad andare a votare. Questi spot anche che avevano uno slogan: l'Europa sei tu. Altri, questi spot per il web in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano e i vari Europe Direct sono stati realizzati anche con l'aiuto dei giovani, proprio per sensibilizzare, per cercare di scaldare un po' l'umore, la passione per l'Europa. Manca una settimana al voto il più è stato fatto in termini di promozione, in termini di informazione. In questa settimana ci si scatenerà, al di là delle campagne elettorali, non vogliamo toccare questo argomento, ma vogliamo toccare l'invito al voto, ci si scatenerà soprattutto sui social network, e di tutto questo ne parliamo con Andrea Maresi, che è responsabile delle relazioni con i media del Parlamento Europeo in Italia. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, l'appuntamento clou sarà domenica sera a Giochi Fatti, quando alle 20 dalla sede del Parlamento Europeo a Roma ci sarà un collegamento con Bruxelles, e lì si seguirà insieme, arriveranno i primi exit poll, i primi scrutini. Quello è un po' l'appuntamento fisico a cui siete rivolti, però in questa settimana i social network avranno ancora tanto da dire, vero? Diciamo che il più è stato fatto, ma il più ormai tutto è online, e quindi utilizziamo queste informazioni e mano a mano avviciniamoci a questo appuntamento del 25. Io mi rivolgo soprattutto a tantissimi giovani, abbiamo in Europa 38 milioni di persone che andranno per la prima volta a votare, e soprattutto tanta gente indecisa su chi votare, se andare a votare. Diamo uno sguardo online sulle informazioni che il Parlamento Europeo mette in campo attraverso il sito specializzato, anche Facebook, e un sito che voglio che ve lo appuntiate, che è electionsnight2014.eu. Tutti gli sviluppi di questa elezione mano a mano fino ad arrivare a domenica. Sapete che l'elezione si svolge da giovedì a domenica, si parte con stati come l'Inghilterra, l'Olanda, e poi chiudiamo noi alle 11 di sera. E mano a mano, voglio dire, da domenica sera, dalle 10 di sera di domenica, inizieremo ad avere i primi sentori, dalle 11:05 lo spoglio concreto con le informazioni di quello che può essere poi il Viminale europeo, che è il Parlamento europeo. Noi saremo in diretta con un evento aperto al pubblico in via 4 novembre a Roma, un evento organizzato in collaborazione con l'ufficio di informazione del Parlamento europeo Milano e Roma, per insomma dare questi primi risultati e capire a livello europeo chi ha vinto e come si collocano per partiti nazionali all'interno di questa nuova plenaria. Certo, Andrea, quello che abbiamo visto in queste settimane, torno ai social network e torno anche alla vostra campagna di promozione al voto, l'avvento di internet ha sicuramente scatenato una creatività nuova anche nelle istituzioni. Abbiamo visto video molto smart, molto ironici anche, si è giocato molto sulla chiave dell'ironia per sensibilizzare al voto. Vi siete anche divertiti, credo. Ah sì, diciamo che c'è un coinvolgimento importante di tantissimi colleghi, soprattutto a Bruxelles, perché è lì poi la fonte delle informazioni. Noi poi li rilasciamo, le riprendiamo, ci coordiniamo, però di fatto si è un po' espressa la maggior creatività per avvicinare soprattutto i più giovani, ma poi di fatto insomma con internet tutti sono gli attori principali di queste informazioni, quindi ci sono tantissimi giochi anche da utilizzare per appassionarsi all'Europa, capire perché è importante, al di là dell'appuntamento elettorale, utilizzare questo appuntamento elettorale proprio per cercare di avvicinare più persone possibile, per capire perché è importante questa evoluzione. Mi riferisco magari a un esempio su Facebook che c'è, su internet, sul sito del Parlamento Europeo, europeelections.eu, sì. Per quanto riguarda gli sviluppi magari degli ultimi 20-30 anni, come erano le nostre case, come siamo sviluppati anche con le nuove tecnologie, come mano a mano questi anni hanno cambiato proprio noi stessi, il nostro paese, insomma la nostra Europa, e penso che questo è un punto centrale da cui partire, insomma. Comunque è importante, direi, mettiamoci online, iniziamo a giocare, scoprire tutte queste informazioni attraverso il sito del Parlamento Europeo, e in particolare la principale applicazione, che è quella di Facebook. Ci sono moltissime informazioni creative su come approfondire questa Europa, approfondire tutte le opportunità che ci ha fornito e capire magari quali sono i problemi che sono in campo. Certo, grazie a voi Andrea, ricordiamo election2014.eu/it, il sito Election Night. Election Night è questo, quello ufficiale, grazie. E va bene Andrea, buon lavoro, insomma ci ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate dell'Altra Europa, perché ci sarà ancora tanto da dire. Ciao, ciao, ciao, buon weekend. Europost-it. Thunderclap, l'app per condividere le elezioni europee. A due settimane dalle elezioni europee, il Parlamento europeo invita gli utenti di Facebook, Twitter e Tumblr a spingere i propri amici e contatti sui social network a partecipare al voto. Il messaggio da diffondere è: domani userò i miei diritti per scegliere chi guiderà l'Europa. Unisciti a me e vota alle elezioni. Per facilitare la diffusione del messaggio c'è anche un'app, Thunderclap, con la quale si possono condividere news, infografiche e video. Per usare Thunderclap bisogna registrarsi con il proprio account Facebook o Twitter e permettere all'app di inviare un messaggio il giorno prima delle elezioni. L'obiettivo finale è incentivare la partecipazione, facendo anche diventare l'hashtag EP2014 trending topic prima delle elezioni. Complimenti! Ora che hai prestato giuramento, anche tu sei un cittadino italiano. E in quanto italiano godi anche dei diritti di cittadinanza europea. Puoi circolare liberamente per l'Europa e decidere di trasferirti in uno qualsiasi dei 28 paesi membri. Puoi studiare e far valere il tuo titolo di studio, cercare lavoro ed essere tutelato come un cittadino europeo. Hai diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria. Non dimenticare che puoi votare e candidarti per le elezioni europee del 2014. Cittadini italiani, cittadini d'Europa. Quello che avete ascoltato è uno spot che appartiene al progetto Nuovi Cittadini Europei. Sono stati loro anche i promotori di un interessante sondaggio per capire qual è la percezione della dimensione europea dei nuovi italiani, un sondaggio di opinione appunto allargato, un'iniziativa che rientra tra le attività previste del progetto di comunicazione e sensibilizzazione Europa nelle lingue del mondo, realizzato dalla cooperativa sociale Programma Integra e promosso da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E con noi c'è Nicoletta Basili, che è coordinatrice del progetto. Ciao Nicoletta, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, un progetto molto importante, il vostro, con mille divagazioni, mille costole, però in particolare oggi ci concentriamo su questo sondaggio che avete realizzato attraverso 900 questionari che hanno coinvolto i nuovi cittadini italiani. Cosa ne esce? Che percezione dell'Europa hanno a una settimana dal voto? Ne esce che sono piuttosto informati, ne esce tra i dati più interessanti, possiamo dare alcuni numeri: il 70% di questi nuovi cittadini italiani dichiara di avere familiarità con il termine cittadino dell'Unione Europea, quasi il 90% è consapevole che essere italiani significa anche essere europei. Tuttavia abbiamo notato che quando si entra più nello specifico e si fanno delle domande un po' più approfondite, c'è ancora da fare nell'informazione. Infatti il 27% di questi cittadini pensa che per diventare cittadino europeo bisogna richiederlo, e addirittura il 42% pensa che si possa rinunciare alla cittadinanza europea. All'ultima domanda, che è una domanda proprio sul generale, su quanto si sentono informati, tuttavia di nuovo questi cittadini dicono di essere piuttosto informati. Il 75% dice appunto di ritenersi informato sui diritti e le opportunità che conferisce loro l'Unione Europea. Un dato che è molto interessante da mettere vicino al dato sugli alla stessa domanda hanno risposto gli italiani recentemente in un Eurobarometro, e in questo caso il 75% degli italiani invece si sente non sufficientemente informato. Quindi è interessante questo, questa comparazione tra nuovi cittadini e cittadini italiani. Dall'inizio, dall'origine. Nicoletta, risultati che vi hanno sorpresi? Ci hanno sorpresi, perché li abbiamo messi anche in comparazione con i risultati dell'Eurobarometro 2012 sugli italiani e un po' su tutti i cittadini comunitari dei vari paesi membri. In particolare ci ha sorpreso il fatto che in generale c'è questo sentimento di grande informazione, che appunto è un po' in contrapposizione con quello degli italiani. Una nostra interpretazione potrebbe essere anche il fatto che chi è un nuovo cittadino ha un lungo percorso per diventarlo e in qualche maniera è costretto, tra virgolette, a doversi prontamente informare, capire, entrare un po' nel vivo delle questioni. Quindi proprio per questo magari c'è una maggiore attenzione, no? A diritti, opportunità, a come si fanno le cose. E quindi insomma questa potrebbe essere una prima riflessione. Grazie davvero Nicoletta, ricordiamo il sito per conoscere l'intero progetto che è nuovicittadinieuropei.it. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Ci fermiamo un Europostit, un po' di pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Sondaggio: come interagisci con la Commissione europea? Quali sono le ragioni principali per cui i cittadini hanno a che fare con la Commissione europea? Partecipare a bandi e concorsi? Per la difesa dei diritti di viaggiatori? Per le norme nell'industria? Per la ricerca di lavoro all'estero? Le opzioni sono tante e la Commissione europea chiede di metterle in ordine di importanza scegliendo le 5 più importanti in un sondaggio sul portale SurveyMonkey. Partecipate anche voi! Il sondaggio è disponibile in diverse lingue e ha una durata di pochi minuti. Per trovarlo, digitate su Google European Commission Survey e SurveyMonkey. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Aeronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia se volete trovarci sulle nostre piazze virtuali in Twitter e Facebook. La pace, quante volte il progetto europeo, l'Europa comune è collegata al tema della pace, perché la pace è l'assenza di guerra in questi anni, in questi decenni, viene portata ad esempio del risultato, di uno dei risultati più concreti del percorso comune europeo. Proprio questa settimana è stato inaugurato un nuovo organismo, un organismo indipendente, e si chiama Istituto Europeo della Pace, ed è nato per agevolare il compito di risolvere le controversie internazionali dentro e fuori l'Unione Europea. È voluto fortemente dalla Svezia, sostenuto da 9 paesi europei: Belgio, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Spagna, Svizzera e Ungheria. È un organismo indipendente che collaborerà con le istituzioni europee, ma avrà una sua autonomia. Alla guida di questo istituto c'è un italo-svedese, un diplomatico, anni di esperienza, ha lavorato sia all'ONU, è stato anche viceministro degli esteri nel governo italiano. Si tratta di Staffan de Mistura, che è qua con noi proprio per presentarci questo Istituto Europeo della Pace. Buongiorno de Mistura, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a lei e a voi tutti che ci ascoltate. Allora, è strano in una Europa che si cerca di snellire, dove la nascita ogni volta di una nuova istituzione un po' fannicchiare perché sembra un aumento di burocrazia, invece nasce un'istituzione, un istituto europeo della pace. Quali sono gli obiettivi e a quale bisogno deve rispondere questo organismo? L'obiettivo è una domanda che ci poniamo, ci siamo posti, vi ponete tutto il tempo. Quante volte ce la siamo posta? Ma è possibile che l'Europa non abbia potuto prevenire un conflitto che avveniva al suo interno, vedi la guerra dei Balcani, o intorno alle proprie frontiere, sia a est che a sud? Perché non possiamo in qualche maniera fare come i medici, prevenire piuttosto che curare con enormi cifre e con enormi fatiche? E in questo contesto l'Istituto Europeo per la Pace è stato creato proprio perché c'è una necessità. Cosa dovrebbe fare? Prima di tutto non è una burocrazia, sono 25 persone, il budget è 3 milioni di euro per tutto un anno. Sì. Io non prendo alcun stipendio, nonostante mi pare alcuni giornali abbiano voluto dire che prendono stipendio, non lo prendo perché il Presidente giustamente non deve prenderlo soltanto il rimborso spese e un eventuale gettone di presenza, ma solo quando si è nelle riunioni del comitato direttivo. Il comitato direttivo è fatto da 9 governi, però lascia indipendente l'istituto, affinché sia l'istituto a dire: un momento, attenzione, sta avvenendo qualcosa che potrebbe produrre un conflitto in Ucraina. Queste sono le opzioni. 2, possiamo noi parlare con alcune persone che voi governi non potete o non volete parlare. Perché non gli è permesso? Per prevenire un conflitto. Vede, questo tipo di iniziativa era ed è molto sentito in Europa, a costo basso, ma con possibili capacità di prevenire conflitti a costi elevatissimi. Certo. De Mistura, la diplomazia oggi... Che forza, nel senso, al di là delle sanzioni, al di là dei ricatti, al di là delle ritorsioni, no? Ogni volta che ci sono venti di guerra sui giornali, sono queste le armi che vengono utilizzate per cercare di evitare una guerra, ma esiste anche un'altra diplomazia? Ma certo, ed è forse quella che non si vede, non si deve vedere, ma che produce i migliori risultati. Di nuovo, tornando all'esempio medico, la prevenzione di una malattia di solito non si vede, semplicemente alcune attività, iniziative ed modulazioni che evitano la malattia. Poi, quando la malattia è eclatante, si interviene con antibiotici e con medicine pesanti e interventi chirurgici. Ebbene, più o meno in politica è lo stesso. Quanti conflitti io stesso ho visto con i miei occhi non avvenire, ne parlo del Burundi per esempio, non sono avvenuti e nessuno ne ha mai parlato, proprio perché c'era la prevenzione. Ora, la diplomazia ufficiale usa le sanzioni, ma purtroppo la storia ci ha insegnato che le sanzioni, 1, non sono molto efficaci, 2, puniscono molto spesso chi non va punito, e gli altri in effetti hanno i loro meccanismi per continuare ad andare avanti. Quindi è un metodo che viene normalmente usato, ma che tutti sappiamo non è la soluzione. L'Unione Europea spesso in vicende legate alla politica estera non ha avuto una voce comune. L'Istituto Europeo della Pace potrebbe avere anche questa missione, cercare di unificare le tante voci degli Stati membri? Questo sarebbe troppo ambizioso, bisogna essere onesti con noi stessi, soprattutto quando si crea un istituto che vuole essere indipendente, e produrre questo risultato avverrà col tempo e forse con le stesse istituzioni che comprendono che c'è bisogno di una voce unica europea. Vedremo dopo queste elezioni anche il tipo di persone che sceglieranno, ma quello che l'istituto può fare e deve fare e prevede di fare e preparare delle opzioni affinché, scritte in poche parole, non ci vogliono libri, studi, analisi, qui c'è altri che lo fanno, che diano una pressione e una chiarezza di che cosa si può fare e si dovrebbe fare affinché ci sia una politica comune. Mi spiego. Prima che scoppiasse di nuovo la crisi ucraina, sì, si poteva fare molto. Si doveva fare molto, ma in qualche maniera l'Europa e altri sono stati ciechi e ci è scappata di mano. A questo punto la stiamo rincorrendo sia da parte nostra che da parte, secondo me, anche della Russia, perché in effetti è una crisi che doveva essere prevenuta. Se ci fosse stata una iniziativa che, spiegando bene quali erano i pericoli, 2, prendendo contatto con le varie parti affinché in quella piazza non avvenisse degli eccessi in una direzione o nell'altra, e si potesse controllare la crisi come i 3 ministri europei avevano proposto, ma che poi non c'è stato un seguito, forse oggi non ci troveremmo con questo enorme dilemma in cui siamo tutti perdenti. Perfetto, grazie davvero. Il sito www.eipe.org, l'istituto diventerà pienamente operativo il prossimo anno, speriamo quindi, De Mistura, di risentirci per parlare di pace e non di guerra. Soprattutto di prevenzione di guerra e quindi di continuità della pace, ha ragione, grazie comunque. Buon lavoro a lei e tutto il suo staff, grazie ancora. Grazie. Europost-it. Servizio volontario europeo. Quest'estate avete voglia di partire per partecipare ad un servizio volontario europeo? Ci sono diverse possibilità nei Paesi Bassi, in Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Le scadenze vanno dal 20 maggio al 1 agosto e la durata del servizio è in genere di 12 mesi. Si tratta di volontariato soprattutto con bambini e la partenza varia dai primi di luglio ai primi di settembre. Per conoscere tutti i dettagli delle varie possibilità, andate sul sito serviziovolontarioeuropeo.it. And right now Babylon dep on me case. Raccontare come i cittadini di 5 città europee hanno reagito alla crisi dopo il successo dell'esposizione al Matadero di Madrid con 20.000 visitatori. È stata inaugurata giovedì 15 maggio a Torino la mostra We Traders, Cedo Crisi Offro Città, promossa e organizzata dal Goethe Institute in partnership con la città di Torino. Un bel modo per raccontare l'altra crisi, quella della creatività, quella delle forze in campo, quella di chi comunque ci crede e quindi mette l'energia per ripartire. Tutto questo ce lo racconta Jessica Kratz-Magri, direttrice dell'Istituto Goethe di Torino. Ciao Jessica, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno, allora è una bella Europa quella che viene raccontata in questa mostra? Sì, un'Europa vitale, piena di energia, molto propositiva e creativa. Uh-huh. Ed è un'Europa che c'è, nel senso che non sono progetti sulla carta, ma sono progetti che sono stati realizzati da tanti giovani. Sono 25 i We Traders provenienti da Berlino, Lisbona, Madrid e Tolosa, Torino. Jessica, ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alle informazioni del traffico e poi ci racconti un paio di questi progetti proprio per capire quella che è l'anima della mostra. L'altra Europa. Andiamo a visitarle allora queste città reinventate, raccontate dalla mostra itinerante del Goethe Institute. Allora Jessica, un paio di progetti proprio per avere un'idea di quello che si può respirare in questa mostra. Ma uno dei progetti più eclatanti forse è il campo di Cebada, il campo di Orzo, che si trova nel centro di Madrid. È una comunità aperta nata in una situazione di conflitto perché da anni vi era un cantiere abbandonato e mai finito, dove originalmente doveva nascere una piscina comunale. Sì. E i cittadini, i vicini di questa piazza e di questo cantiere erano stufi di avere questo cantiere abbandonato e quindi hanno iniziato ad occuparlo, e tramite pratiche di architettura partecipata ma anche iniziative culturali hanno trasformato questo cantiere vuoto in un luogo vivissimo del centro di Madrid, ed è diventato un progetto ormai anche conosciuto a livello internazionale grazie alla vittoria di importanti premi come della Biennale d'Architettura Spagnola nel 2013, e ormai sono più di 100 vicini che in modo informale si incontrano tutte le settimane e realizzano al campo di Cebada iniziative. Certo, ma perché scusami, dimmi pure. No, un altro progetto invece molto interessante è quello del Merkan Kids a Berlino. Sì. Berlino vive la crisi in modo molto ambivalente perché è una delle città più povere della Germania e che ha come grande risorsa gli spazi vuoti, ma soprattutto da circa 8 anni a questa parte è diventata anche luogo di speculazione immobiliare internazionale, e a questa dinamica, a questo processo stanno reagendo i cittadini e questo esempio è appunto paradigmatico perché sono più di 1.000 persone, anche qui un progetto di vicinato nel quartiere di Kreuzberg, che si sono messi insieme per acquistare un'area di di 30.000 metri quadri, quindi molto molto grande, e in modo partecipato stanno costruendo 450 appartamenti dove in futuro vivranno generazioni diverse, tutto l'areale sarà sviluppato secondo criteri di ecologia e sostenibilità, privo di barriere architettoniche e con un sistema anche di integrazione sociale. Certo, insomma, hai usato un po' delle parole chiave che fanno anche da filo conduttore a tanti di questi progetti che hanno al centro comunque la condivisione non solo materiale, condivisione di idee, di progetti. I trader sono scambiatori, sono dei barattatori, insomma, e tutta questa esplosione di creatività e di voglia di sharing esce in questi progetti. La mostra, lo ricordiamo, è a Torino presso gli spazi di Toolbox, a pochi minuti dalla stazione di Porta Nuova, anche lì un grande distretto di coworking, quindi ancora una volta di condivisione. Grazie davvero Jessica. Goethe.de, il sito ufficiale per avere tutte le informazioni anche relative alla mostra. Ciao Jessica, buon sabato. Grazie, buona giornata. Estamos pobres, sem dinheiro, a ter ajuda do estrangeiro. Portugal, no que é que te tornaste? Temos estradas, aeroportos e até dois submarinos. Governo, porque é que nos tramaste? Sem dinheiro nenhum, passamos o dia em jejum, só comemos. Sonorità portoghese in questi pochi minuti che ci rimangono per continuare a parlare di crisi, di narrazione della crisi. Lo facciamo dopo aver letto un bellissimo saggio sul sito sulromanzo.it intitolato Racconto della crisi e crisi del racconto fra Portogallo e Italia, scritto da Marcello Sacco, giornalista freelance, traduttore, collaboratore con l'Espresso, pubblica su Qcode Magazine, e il suo articolo appunto racconta come una crisi vada a giocare sul linguaggio e viceversa. Ciao Marcello, benvenuto, e viceversa. Ciao Marcello, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Allora, ciao. Tra l'altro oggi è un giorno particolare per il Portogallo, vero? Sì, è un giorno particolare perché oggi finisce ufficialmente il piano triennale di salvataggio della Troica. Oggi la Troica, il Portogallo dice adeus, addio, ciao alla Troica, è un addio discutibile, molto discusso. In realtà la Troica non va via, restano misure e gli impegni presi con la Troica, con l'Europa, e insomma sì, se ne parla molto e la luce in fondo al tunnel ancora è lontana. Oggi c'è un consiglio dei ministri, credo, in corso. Sì, c'è un consiglio dei ministri straordinario in cui da cui si aspetta, insomma, ci si aspetta poco. L'opposizione lo considera già semplicemente una manovra elettorale, data la campagna elettorale per le europee. Uh-huh. Una campagna elettorale molto molto spenta, devo dire. Sì. Insomma, c'era più probabilmente attenzione a guardare dentro che guardare fuori. I portoghesi non credono molto poco all'Europa, e ora più che mai l'astensionismo è sempre stato altissimo in Portogallo. Alle europee del 2009 ha votato poco più del 30%, uh-huh. È stata un'astensione credo del 63%, e probabilmente quest'anno sarà ancora più alta. Marcello, abbiamo un paio di minuti. Io invito veramente tutti i nostri ascoltatori ad andare a leggere sul sito surromanzo.it il tuo articolo. Da dove parte però? Qual è l'intuizione iniziale e qual è il cuore del tuo scritto? Ma l'idea era cercare di capire come cambia, come potrebbe cambiare la narrazione, non solo la narrativa, il romanzo, ecco, il genere romanzo anche se ne parla, ma un po' il racconto della crisi, anche in generi televisivi, contenitori televisivi come il telegiornale. Effettivamente questi anni sono cambiate tante cose, c'è per esempio un protagonismo straordinario di cui non c'era memoria, insomma, negli ultimi decenni, protagonismo straordinario dei giornalisti economici, il racconto economico, la lingua che cambia, no? Oramai sono entrate nel linguaggio comune parole come troika, swap, spread ed altre cose. Cambia proprio la forma, il telegiornale. Io dico che prima il Portogallo era un paese narrativo, no? E invece sì, adesso sta diventando un paese saggistico, cioè un paese in cui si discute di più e si racconta di meno. E non so se questo cambiamento continuerà e in che modo, però insomma la curiosità era questa, e poi cercare di capire come questo si può anche riflettere nella narrativa cosiddetta vera e propria, cioè nel romanzo o nel racconto. Ricorda ancora su romanzo.it per andare a leggere il racconto della crisi e crisi del racconto fra Portogallo e Italia. Marcello, prima di salutarci, proprio una manciata di secondi, perché so che anche tu hai appena pubblicato un libro, forse è in uscita nei prossimi giorni, vero? Sì, è un libro su Salazar, quindi un libro sulla storia recente del paese. Salazar arrivò al potere come ministro delle finanze, appunto, per risanare una crisi del debito. Ovviamente i parallelismi non devono essere così banali, però ci sono dei corsi e ricorsi storici che ci fanno pensare. Ho pensato che sarebbe stato interessante, in Italia non ci sono molte pubblicazioni, a parte appunto alcune pubblicazioni accademiche più specialistiche, che io ho appunto consultato, e ne ho fatto, diciamo, un racconto spero agile, insomma è un libro di una novantina di pagine che racconta questa una fetta della storia politica europea da questo punto di vista, periferico come il Portogallo, ma non tanto periferico come certo Forse potrebbe sembrare, perché gli agganci alla storia anche italiana e europea ci sono, e sono tanti. Sono tanti. Salazar, ascesa e caduta di un dittatore tecnico, questo è il titolo del libro di Marcello Sacco. Grazie davvero Marcello, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. E finisce qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a voi, come sempre, per essere stati in nostra compagnia. Un grazie alla squadra, Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, Giorgio De Luca, oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica. Ancora ciao, ancora buon sabato. Da Federico Daddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.